Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Anche noi disabili. Affanculo tutti i disabili. Io ho bisogno di un mondo con persone che siano tutte normali. Non esiste la disabilità. Non hanno nessuno scopo nella vita. Non hanno nessun motivo di vivere. Affanculo ai disabili. Certo, è facile sentirsi dalla parte della ragione, dalla parte dei buoni, quando si sente un signore, poverino, così disturbato, che sente il dovere, la necessità di lanciare nel numero verde dedicato appunto alla nostra iniziativa per parlare, discutere anche sulla diversità, questo suo ribadire il fatto che ci vorrebbe un mondo fatto soltanto di persone come lui, che i disabili non devono esistere, non hanno diritti. L'ho fatto ascoltare non semplicemente per mostrare che è sin troppo facile il lato oscuro dell'umanità, le persone che insomma ci fanno sentire anche migliori di quello che realmente oggettivamente siamo, solo perché sono convinto che in realtà questo atteggiamento, questo punto di vista così rozzamente e banalmente espresso da un signore che ha a disposizione pochissimi strumenti culturali, quasi nulli, in realtà è un atteggiamento interiorizzato e condiviso da molte persone, da persone molto più raffinate, da persone che hanno studiato, da persone che hanno anche ruoli di rilevanza nella società. Non lo dicono apertamente, non lo manifestano apertamente, perché oggi incorrerebbero in una sorta di condanna generalizzata per esprimere in maniera diretta punti di vista così banalmente abnormi, però lo sentono e si vede nei comportamenti quotidiani, si vede nei piccoli disagi che devono sopportare ogni giorno le persone che ci chiamano, si vedono nei grandi intoppi a avere una vita il più possibile serena che allo stessa maniera trovano di fronte loro le persone che ci chiamano. Quindi anche oggi, anche noi disabili, anche noi dalla parte di quelli che comunque hanno dei problemi, perché parte dell'umanità che non abbia problemi è veramente impossibile trovarla. A tra poco. Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. 800 0024 00, ripeto, questo è il numero verde per chiamarci e per dare un vostro contributo alla nostra rubrica. Non è poi una rubrica, è un atteggiamento diffuso per tutta la radio, per tutti i programmi, per tutti i notiziari, anche noi disabili. 800 0024 00. Se avete punti di vista da esprimere, avete problemi particolari, avete dei rapporti problematici con le istituzioni, con le amministrazioni, con le persone che vi stanno attorno, se volete discutere comunque di quella vostra fetta nella grande famiglia delle persone che comunque non sono totalmente perfettamente allineate con la media nella capacità di poter gestire tutti i loro sensi e tutte le loro consapevolezze, chiamateci pure. C'è anche una casella di posta elettronica, anche noi disabili, @radio24.it. Ci rivolgiamo alle persone con disabilità non perché ci riteniamo migliori degli altri, perché vogliamo prendere le distanze da signori come quello che ha telefonato poco fa, ma semplicemente perché sentiamo sulla nostra pelle il problema di doversi confrontare con una società che sembra indifferente, o perlomeno sembra apparentemente interessata, ma non poi radicalmente efficiente, nel considerare che esiste una parte dell'umanità che comunque ha più problemi degli altri. E di queste persone noi oggi vogliamo parlare e a queste persone vogliamo dare voce. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Allora, Giuseppe, io leggo dalla sua scheda che lei ha dei problemi riguardo al fatto che lei non vede, a parte la categoria delle persone che non riescono, non vedono, però dei problemi nel muoversi, nello spostarsi in treno. Mi sembra sia questo il problema. Sì, diciamo più che altro che Trenitalia sembrerebbe che ci dà una cosiddetta assistenza per aiutarci a cambiare i treni e tutto il resto, però poi ha una struttura a livello iniziale, proprio quella iniziale che fa vedere il disabile che deve essere accompagnato, preso e riportato, che non funziona bene, perché praticamente noi abbiamo con Trenitalia 14 sale blu che dovrebbero garantirci di accompagnarci. Ecco, mi spieghi bene, cominciamo dall'inizio. Allora, un non vedente che deve prendere il treno, deve viaggiare in treno, come si comporta? Facciamo un tutto l'iter, lei cosa fa quando deve prendere un biglietto in treno? Allora, un non vedente, a parte il biglietto che se lo procura da sé... Lo può comprare in rete, certo. È capace, può farlo questo, sì. Per avere l'assistenza deve, nelle grosse città, chiamare o mandare un'email almeno un'ora prima. Per le piccole città deve essere almeno 24 ore o 12 ore prima, mandare l'email che deve prendere un certo treno che va da Milano a Roma con cambio per Firenze, eccetera, eccetera. Lei lo accompagnerà qualcuno, prenderà un taxi, arriva alla stazione. Sì, se lei ha telefonato, come fa a incontrare la persona che deve accompagnarla? Noi dobbiamo segnalare il punto dove ci troviamo. E per esempio per me a Milano mi sembra assurdo che non ci sia come punto di ritrovo la metropolitana, che è il punto più facile per noi non vedenti arrivarci. Ci mettono i taxi di a Genova, i taxi di Piazza Savoia, ma non ci mettono la metropolitana, e ci mettono ad esempio la sala blu, che per arrivarci bisogna fare delle scale, oppure ci mettono lo sportello 17, che anche lì per arrivarci una chicane. Questa invece la metropolitana, che è al piano terra, a livello strada, sarebbe più facile per voi. Una volta che siamo fuori dalla metropolitana, loro ci vedrebbero e ci verrebbero a prendere. Questo è una cosa, per esempio, per quanto riguarda Milano, ecco, perché io sono un cittadino calabrese di origine, però che vivo quasi tutti i miei giorni a Milano, facendo quasi tutte le mie funzioni. Vabbè, ma noi intanto è un suggerimento che stiamo dando. Penso la sua testimonianza è utile a chi si occupa di questo servizio per avere qualche indicazione più per renderlo migliore. Quindi in questo senso facciamo parlare. Primo problema, allora ci vorrebbero, diciamo, una mappatura più attinente ai bisogni del non vedente per essere prelevati dalle persone che si occupano di questo servizio. Di questa assistenza, appunto. Altra cosa, c'è un numero verde che si può fare solamente da rete fissa. Ora, il disabile che va in giro, di sicuro non va a rete fissa, ma c'è il cellulare. E per il cellulare c'è un numero a pagamento, che è l'199 30 30 60, che dovrebbe corrispondere a delle sale blu. Questo numero, quando si fa, non rispondono mai, o quando rispondono, ti tengono al telefono 5-6 minuti al costo di 50 centesimi al minuto. Il non vedente che deve chiamare per avere l'assistenza può chiamare solo da un telefono fisso. Se si trova a spasso per la città, è chiaro, il telefono fisso non si trovano più, non ci sono più cabine, deve chiamare con il suo cellulare come è normale. Se chiama con il cellulare c'è un numero a pagamento, quelli che una volta si usavano... per le linee erotiche o per queste cose, che si paga, e si sta a aspettare un sacco di tempo, perché più tempo aspetti e più, diciamo, chi gestisce il numero ti fa pagare, che mi sembra una cosa surreale. A lei è capitato questo? Sì, no, soprattutto a parte quello, io magari pago anche 5 euro per parlare con loro, ma almeno rispondessero. E poi soprattutto le sale blu sono 14. Io se ho bisogno della sala blu di Milano, invece mi risponde Bari, mi risponde Roma. Le sale blu cosa sono? I posti adatti per fornire questo servizio? Sono i 14 punti d'Italia con le città più grosse dove prendono le telefonate o le mail dei disabili. Di qualsiasi tipo di disabilità? Sì. Io ho visto molte persone molte volte con la carrozzina che vengono prelevate, certo. C'è una specie di piccolo ascensore, l'ho visto questo tipo. Diciamo, il cieco ha la stessa possibilità di avere servizio. Una volta poi accompagnato nello scompartimento? Una volta ci prelevano, ci accompagnano al treno e poi alla discesa ci riprendono dal treno e ci riportano ai taxi oppure nel punto dove vogliamo essere portati. Diciamo che quest'ultima parte funziona? Sì, quando funziona. Il problema è quello che se io... ho un appuntamento con loro, per esempio alle 18:15, per prendere il treno alle 18:45, ed ho un problema di qualsiasi genere, non so dove chiamare. Cioè, praticamente devo stare in balia loro, che mi chiamino loro. A lei non ha un riferimento telefonico del suo accompagnatore? No, io non ho niente. Ecco perché vorrei che ci fosse un numero. E non è manco dire che può guardarsi intorno per vedersi. È paradossale questa cosa, mi scusi se lo dico, ma è nelle condizioni di trovarsi veramente, non sa come rintracciare questa persona. Io penso che l'altra mattina mi trovavo, c'era stato un signore che gentilmente voleva accompagnarmi per salire su un treno, per andare verso una parte dell'appuntamento allo sportello 17. Questo signore poi improvvisamente se ne è scappato perché non so che aveva da fare. E c'era avuto il suo treno che fuggiva, può essere. Mi sono trovato disorientato. A un certo punto sono andato a sbattere su una persona che dormiva per terra alla stazione di Milano, mi sono un po' perso. Mi stava partendo il treno, grazie alla polizia ho trovato il treno che partiva. altrimenti quelli dell'assistenza non se ne sono più importati, mi hanno chiamato quando già ero sul treno, mi hanno detto scusi ma lei non era all'appuntamento, dico scusi lei perché non mi ha chiamato quando ha visto che alle 6:15 non c'ero? Allora vediamo di essere costruttivo, se lei dovesse essere il plenipotenziario e poter lei impartire ordini a chi fa questo servizio, quali sarebbero i correttivi da attuare? Intanto visto che le sale blu sono comunque piene di tanta gente che ci lavora, non è che sono tanti gli operatori, una volta che uno fa la richiesta del viaggio deve avere un numero a cui potersi rivolgersi per qualsiasi esigenza. Quindi intervento personalizzato, una volta che mi assegnate il servizio io devo poter contattare il mio assistente perché potrei aver bisogno di lui, sì, in tempi diversi. Potrei avere ritardo, potrebbe succedermi qualcosa. Quindi deve avere un cellulare aziendale l'assistente a cui lei può chiamarlo. Certo, come loro possono chiamare. E mi sembra questo, mi sembra il minimo, logico. Anche io lascio il mio numero, lasciamo i nostri numeri, ci chiamano. No, è assurdo perché ci chiamiamo a ogni piè sospinto per ogni minima stupidaggine. No, noi esseri umani, una volta che sarebbe indispensabile il telefono, perché deve mancare. Invece succede che io devo chiamare la sala blu deve chiamare qualcuno, qualcuno richiama la sala blu e la sala blu richiama me. Poi che altri tipi di correttivo? Sui punti di appuntamento aveva detto? Di appuntamento che devono essere un po' più elastici, soprattutto in base alle esigenze del disabile, che può essere io magari mi trovo meglio a essere preso alla metropolitana, un altro si trova meglio a essere preso al taxi, eccetera, sì, molte eccetera. Volte si tende a generalizzare, si immagina il disabile esattamente come scritto nel tagliando per i disabili, soltanto una persona sulla carrozzella, che logicamente non pensano possa venire dalla metropolitana, e tutta l'altra fetta di umanità che comunque ha dei problemi, che in realtà si muove in maniera diversa o si orienta in maniera diversa, è tagliata fuori. Bisognerebbe allora aprire una sorta di feedback o di area di comunicazione dove le persone in qualche maniera comunicano la loro esigenza. Ci sono questi uffici che si occupano di sentire, capito, per tutto, anche i venditori che ti ascoltano se ti vanno bene le scarpe, se ti va bene il vestito che hai comprato, almeno un servizio delicato, ascoltare i suggerimenti magari delle categorie di persone che non sono prese in considerazione. Poi invece per quanto riguarda i servizi delle Trenord, abbiamo tutti i treni che non hanno quasi mai le sintesi vocali, oppure se ce l'hanno dicono le stazioni sbagliate. Il servizio di interfonico automatico, sì, che annuncia le stazioni, molte volte non è sincronizzato con il viaggio, è questo? Sì, appunto, alcune volte dico... Ma aspetta, succede anche alla metropolitana di Roma, ti dice, sì, che ne so, Cavour, in realtà sei fuori Roma, capito? Succede, certo, uno non sì. Si deve mai fidare di quello, sì. Poi chi non vede ha un problema, è chiaro. Sì, per noi è un grande handicap questo. Poi non lo so, come un'altra cosa con Trenitalia che non va è che per esempio con i disabili ci assegnano dei posti uno vicino all'altro, ma guarda caso non li mettono uno a fianco all'altro, ma uno da una parte del corridoio e un altro dall'altra parte del corridoio, sicché il mio accompagnatore è lontano da me. Ah, quando lei va in coppia con una persona, sì, sta dall'altra parte lontano. Poi guardi caso, una cosa, questo un po' per sorridere, a noi in genere quando ci assegnano i posti ci danno il 17. Beh, già siamo sfortunati così. No, questo, ma questa no, questa è la battuta che fa lei. No, no, è vero. Il 17 è considerato il posto della sfiga, quindi ci vanno i disabili. I disabili, sì, che poi tra l'altro sono i posti più vicini ai bagni, quelli insomma che... Sì, quelli più rumore. Sì, essendo i bagni poi sempre con la porta che non si chiude bene. E poi fanno anche rumore. Fa rumore, insomma, sì, sì. Diciamo, ruote, è il posto della sfiga proprio il 17. Sì, sì, ma mi sembra che Giuseppe ha messo già, diciamo, un bel po' di spunti, vedremo in che maniera e come riusciremo a avere qualche risposta, se possibile, oppure lasciando all'attenzione e alla buona volontà di risponderci da parte di chi gestisce questo servizio, alcuni suggerimenti benevoli di un gentile ascoltatore, anche con molto senso dell'ironia, che cui viene assegnato sempre il posto 17, posto della sfiga vicino ai bagni, ma sarebbe poco male, ma bisognerebbe capire questo servizio di accompagnamento se potesse essere gestito pensando più alle esigenze e alle problematiche di chi in realtà deve usufruire di questo servizio. Ci sentiamo tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Diciamo che siamo reduci da un periodo, soprattutto nella prima e seconda metà del mese di aprile, in cui si è parlato molto di problemi legati all'autismo, soprattutto legati all'avventura scolastica di molti ragazzi autistici, che si è scoperto che improvvisamente non possono partecipare alle gite scolastiche, una realtà che tutti conoscevamo da tempo, ma sono venuti fuori alcuni casi che hanno per qualche settimana riportato sulla ribalta dei salotti televisivi anche il problema delle persone autistiche. La cosa su cui probabilmente vale invece la pena più soffermarsi è che l'autismo non è certo qualcosa che scompare con la maggiore età. Per la legge italiana, quando un autistico compie 18 anni, cessa di essere autistico. Io ho fatto una grande festa quando mio figlio ha compiuto 18 anni dicendo che bello, oggi è guarito. In realtà non è che è guarito, è che non esiste una neuropsichiatria specializzata in autismo se non in autismo infantile. Mi sono sentito dire da alcuni illustri medici, dice, ah, lei ha un figlio post-autistico, interessante, non ho mai visto un post-autistico. E mentre ancora ci domandiamo e ci interroghiamo cosa sia un post-autistico, soprattutto chi debba prendersi in carico dal punto di vista sanitario del post-autistico, abbiamo l'ascoltatore Luciano. Luciano, buongiorno. Buongiorno. Il suo problema è la sua situazione, la lascio parlare. Dunque, io sono il papà di una ragazza giovane autistica di 41 anni e sono da solo perché sono vedovo e la seguo da solo. La ragazza è nata a Bassano del Grappa, dove io insegnavo geografia ambientale, e poi mi è morta anche la moglie, cioè la mamma, e sono dovuto ritornare in Romagna, spinto, legato dal servizio sociale di Lugo di Romagna, dove la figlia era ospite di una sorella che però non sapeva curarla a modo giusto. Quindi mi hanno pregato di chiedere il trasferimento, sono venuto a Lugo e a Lugo ho cercato di risolvere qualche cosa. Cioè lei ha dedicato, diciamo, la sua vita a sua figlia? Sì, ho dedicato la mia vita a mia figlia, non poteva essere diversamente. Ho accettato l'invito e sono venuto. Comunque una ragazza autistica di 41 anni appartiene, diciamo, a la prima generazione di persone autistiche, perlomeno definite come tali, a cui non c'era molta certezza nemmeno sulle possibilità di abilitazione, di terapia. Sua figlia come ha passato la sua vita? Cosa ha fatto? Mia figlia inizialmente non mi sapevano dire niente i pediatri, appunto, in Veneto a Bassano del Grappa, e nemmeno dopo, più avanti, quando l'ho trasferita qui a Lugo di Romagna. Ma che diagnosi l'avevano fatto? Cosa gli dicevano che aveva sua figlia? Mia figlia è venuta qui a 4 anni, poi non si sapeva come curarla, è stata in carico ai servizi sociali di allora, dell'epoca 80, 82, 83, e l'hanno seguita anche abbastanza bene, però senza particolari terapie. Praticamente cosa faceva sua figlia? Andava a scuola? È andata a scuola, alle elementari, aveva la maestra d'appoggio tutta la mattina e pomeriggio, e poi è riuscita a fare anche la scuola media quando è stata trovata una struttura a Rimini dove ha fatto tutta la scuola media nel modo che poteva farla, naturalmente. D'altronde non aveva più nemmeno la mamma a quel periodo? La mamma non c'era più. Quindi era proprio sola. Era seguita da allora dal sottoscritto, dal papà e un poco da una sorella, no, e dalle due sorelle anzi. Per il resto stava a Rimini, io andavo a trovarla periodicamente e me la davano anche a casa da lì, e ha ottenuto la licenza di scuola media. Al compimento dei 18 anni, come lei ben sa, l'autismo sparisce e quindi l'hanno dimessa anche da questa struttura perché era per minori. Ho cercato un'altra struttura, è stata trovata qui a Lugo in una situazione di particolare, perché era un centro per anziani soprattutto. Quindi una ragazza 19enne con problemi della relazione, problemi cognitivi, quindi autistica, è stata messa in un posto dove stanno ricoverati degli anziani. Cosa faceva sua figlia in un posto dedicato ad anziani? La mattina la mandavano in una struttura qui in una frazione di Lugo, dove facevano dei lavoretti, agricoltura eccetera, e poi per il resto stava lì in casa in questa struttura con anziani. C'erano solo anziani e lei, una ragazza? E ce n'erano altri, poi ho saputo dopo, di autistici. Quindi mi conferma che in effetti in Italia il punto di destinazione di una persona autistica è finire in un luogo indifferenziato con persone con vari problemi. Ed è stato il meglio che si è trovato, tra l'altro, questa è l'Italia. E in più ce la davano a casa, ma quando era qui a casa c'era anche il fratello, che poi lui era stabile in una, da una cognata a Firenze, ci faceva impazzire. È una ragazza che non ha mai avuto dei trattamenti, nel senso, nessuno ha pensato bene che un autistico bisogna lavorarci sul comportamento, ci vogliono persone specializzate. No, terapie non ne aveva qui. Purtroppo sì, non avendole è chiaro che la ragazza... poteva avere dei problemi, delle crisi, non si trovava a suo agio. D'altronde lei entri un attimo a pensare una persona messa in un posto totalmente a lei strano con degli anziani. Che... Difatti appena possibile ho cercato di fare in modo di tirarla via da lì, perché non era il suo posto, però anche perché qui a casa aveva delle reazioni anormali con me, e col fratello che in quel periodo era qui a Lugo, e quindi sì, si chiamano crisi oppositive, e sono le manifestazioni che fa una persona autistica dei suoi stati d'ansia. Purtroppo ci vorrebbe un terapista specializzato che riesce purtroppo sono molto pochi in Italia, questo è il vero problema. Non c'è nemmeno adesso. Come sta sua figlia? Dove sta sua adesso figlia? È in un'altra struttura privata, perché sono tutte strutture private, e qui anche è l'anomalia. Queste dovrebbero essere seguite da strutture pubbliche con terapisti appositi. Invece... Io non so nemmeno come siano questi terapisti lì in questa struttura, per cui sto cercando di stare il più vicino possibile. Ma questa struttura dove sta adesso, diciamo, che tipo di attività fa sua figlia? Chi c'è insieme a sua figlia? La mattina la portano in, hanno un laboratorio, questa struttura, e fa dei lavoretti di meccanica insieme agli altri, che sono una trentina. Per il resto il pomeriggio la riportano in sede. In sede cosa fanno? Impegnata. Ma quello che manca è la terapia anche psicologica, di farmaci, perché lei sa bene che non ci sono adesso. La portavano a Lugo ogni tanto, qui che c'è un centro di igiene mentale, ma gli davano i farmaci dei malati di mente. Quindi lei mi conferma una cosa che tristemente so bene e di cui mi faccio spesso portavoce. Non esiste un destino mirato ai suoi problemi per una persona autistica. Lei mi sta dando la prova concreta e reale che una persona autistica adulta viene buttata in un grande calderone dove non c'è una persona capace dal punto di vista clinico a capire qual è il suo problema e trovare operatori adeguati al suo tipo di sindrome. Se sua figlia fosse trattata da educatori specializzati nell'analisi e nel trattamento comportamentale, probabilmente avrebbe meno crisi, meno ansie. Anche dal punto di vista farmacologico bisognerebbe tenere conto che una ragazza autistica non è che abbia problemi diversi. Mettere un grande calderone in cui l'unico problema è sedare le persone per farle star tranquille, è chiaro che questo non è considerare un essere umano, è considerare come qualcosa che deve stare lì per giustificare la struttura che lo contiene. Questa è la mia impressione, o mi sbaglio? Quello è giusto, e peraltro con l'età saprà bene che si migliora, non si guarisce mai, però in effetti se uno lavora bene comunque si adatta. Certo, stare sempre in mezzo a persone con problemi e non vivere una vita integrata anche con il resto dell'umanità non è che aiuti molto. No. Lei la vorrebbe portare a casa con lei, sua figlia? Ma sì, almeno un fine settimana. Ma nemmeno questo? No, perché, scusi, non ha diritto a portarla un fine settimana? No, non ho diritto. Sì. E poi non mi fanno nemmeno sapere tutte le cose, perché tutta la cosa è in mano al servizio sociale, che è cambiato completamente da allora quando... Scusi, ma lei non ha più il controllo di una sua figlia di 41 anni, disabile? Quello è. Ma lei non è l'amministratore di sostegno di sua figlia? No, non sono. Hanno nominato una giovanissima avvocata di Ravenna che fa lei l'amministratore di sostegno. Perché non è lei l'amministratore di sostegno? Normalmente è il padre l'amministratore. Non lo so, ma ha scritto, il giudice mi scrisse una riga e mezzo con errori di italiano, perché avevo cominciato ad avere dei problemi di salute, ma potevo... Non veniva considerato in grado dal giudice poter provvedere a sua figlia? Sì, forse così. Che però un padre non possa avere la figlia mi sembra abbastanza paradossale. Non ci sono istruzioni e comunicazioni qui in Romagna, diciamo, perché anche il fatto che dopo i 18 anni l'autismo, tra virgolette, sparisce... non me l'ha detto nessuno, l'ho imparato in seguito, E poi adesso l'assistente sociale che segue mia figlia è sparita e non si fa più viva e non l'ha andata più a trovare. Allora facciamo una cosa, guardi, noi adesso prendiamo tutte le informazioni possibili e immaginabili. Lei ci darà separatamente il riferimento comunque della struttura, della persona che segue sua figlia, e vediamo se riusciamo a risalire e a capire cosa c'è dietro questo fatto che merita secondo me attenzione nazionale come fatto emblematico, al di là di tutto quello che si dice, delle buone intenzioni, delle levate di scuso, delle difese d'ufficio di chi viene a dire continuamente ma no, ma tu sei un pessimista, informati, ci sono delle ottime strutture in Italia. Io non nego ci siano delle ottime strutture, mi sembra drammatico però un padre che prenda totalmente la possibilità di avere un rapporto alla propria figlia disabile di 41 anni, sta in un posto dove lui non sa esattamente cosa accade a lei, quali sono i tipi di terapie, cosa accade alla propria figlia. Su questo ci torneremo. Sono Giovanni Minoli, vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza con le bolle di Mario Sechi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, le inchieste di Giovanna Corsetti, il Vale la Pena di Alessandra Fiori e la comicità della Sora Cesira. E naturalmente ogni giorno i gialli della storia su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Melog. Cronache meridiane. Riprendiamo la trasmissione per noi disabili. Abbiamo già dato i numeri, ma se serve li ridò. Il nostro numero verde è 800 002400. Abbiamo anche una casella di posta elettronica. Anche noi disabili, @radio24.it. Non è che noi abbiamo la pretesa di risolvere i problemi, però diamo voce a molte persone che spesso hanno difficoltà a farsi sentire, difficoltà che qualcuno le ascolta. Abbiamo sentito poco fa una storia veramente disperata di un padre di una ragazza autistica di 41 anni che ha perso il contatto con la figlia, non sa cosa accade alla figlia. La figlia è passata da un istituto generico a un istituto generico all'altro, non ha un trattamento specifico per il suo problema, prima stava con degli anziani, adesso sta in un altro posto. Il padre vorrebbe sapere qualcosa di sua figlia, non può nemmeno portarsela a casa un giorno. Andiamo avanti con la storia di Maria Rita. Maria Rita, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti. Da dove chiama? Io chiamo da Napoli, sì. E sono la mamma di Luca, ragazzo di 17 anni, autistico. Ah, ancora autistico a tutti gli effetti? Sì, autistico purtroppo grave con un danno cerebrale che mi è stato diagnosticato intorno ai 2 anni di età. Vive con lei? Sì, vive con me. La mattina va al semiconvitto vicino Napoli perché il pomeriggio purtroppo non riesce a gestire il suo tempo e le sue attività, quindi... E quali sono queste attività? Lei la mattina va a scuola, diciamo, suo figlio? No, la scuola purtroppo... Vabbè, semiconvitto. No, l'ho dovuto necessariamente ritirare perché il sostegno è come se non l'avesse mai avuto. Fino a 10 anni la maestra lo teneva nel cosiddetto cappuccino, me ne sono accorta tardi, l'ho ritirato... E quindi adesso è a semiconvitto con altri ragazzi. L'ha ritirato per una sua precisa scelta o perché la scuola non era in grado di mantenere? Assolutamente perché la scuola non era idonea a Luca, purtroppo. Cioè non avevano persone adatte a gestire l'inclusione di suo figlio? Sì, perché mio marito è avvocato, ci siamo anche mossi sotto un profilo legale, però purtroppo Luca non è andato avanti e per fare in modo che non regredisse ulteriormente, dato il danno cerebrale, l'abbiamo dovuto necessariamente ritirare. E quindi adesso a Marano, vicino Napoli, in un semiconvitto, il centro Serena, che purtroppo, come lei mi insegna, non è per gli autistici, ma è per altro tipo di disabilità. Quindi non ha nessuno specializzato per seguire la sua il suo tipo di problema? Assolutamente no, solo da piccolino ha seguito il metodo Kbam dai 3 ai 5 anni col dottor Lubin. E ha avuto dei progressi. Poi purtroppo non ha mai trovato un operatore, un educatore che si occupasse di suo figlio? No, purtroppo no, solo la dottoressa Angela Baldoni, che era specializzata in comunicazione facilitata e ci ha un po' aiutato. Sì, però la comunicazione facilitata, lo sa, non è un metodo che aiuta gli autistici. Sì, purtroppo sì. È un metodo illusorio e fa perdere tempo alle famiglie, basta, mi dispiace dirlo. Sì. Adesso purtroppo la gestione è terribile, come lei ben sa, perché è diventato un ragazzone di 1,80 m con le sue purtroppo no, il ragazzo non è stato mai trattato nella maniera giusta, non ha avuto mai le persone giuste che lo seguissero, perché se faceva la comunicazione facilitata lei sa bene che non è che aiuta un autistico, purtroppo se ne sarà accorta anche lei. Quindi adesso dove sta suo figlio? Adesso sta ancora al centro e per le 16 sarà qui a casa e c'è una badante che da 13 anni lavora con noi, con la quale aveva comunque un buon rapporto fino a qualche anno fa. Parla sempre di personale non specializzato al trattamento degli autisti. Sì, la badante va bene. No, ma adesso chiedo scusa se la interrompo, abbiamo trovato un centro che si chiama Centro AIAS, che è qui vicino a Napoli, che è proprio per autistici. Questo è già una cosa. Sì, e ci siamo. Certo, a me mi sembra sconvolgente comunque sentire e sapere, cose che conosco così troppo bene, che esserci una sorta di ricerca di caccia al tesoro per trovare qualcuno che abbia qualche possibilità. Sì, quindi adesso cosa vorrebbe lei? Cosa vorrebbe comunicarci? A parte la storia di questa storia. Vorrei che mio figlio avesse delle opportunità come gli altri ragazzi autistici, come vedo che anche a Roma ci sono dei centri sportivi, perché lui vedo che è molto bravo a correre. Ma lei non ha una possibilità di fargli fare un'attività sportiva? Purtroppo solo per bambini piccoli, per bambini di una fascia d'età tra gli 8 e 12 anni. Non ci sono associazioni che fanno attività sportiva in tutta la provincia dove si trova lei, provincia di Napoli? Sì, non riesco a trovare nulla. Io vorrei che facesse anche un po' di atletica, perché secondo me è importato. Guarda, a me sembra singolare. Guardi, comunque chi ci ascolta in questo momento nella provincia di Napoli o Napoli città, c'è una madre con un ragazzo autistico di 17 anni, ci scriva, anche noi autistici, @radio24.it, è una cosa abbastanza impellente, perché un ragazzo non può starsene tutto il giorno a fare nulla al pomeriggio, vorrebbe fare un'attività sportiva, correre, fare delle attività adeguate comunque alla sua irruenza fisica, alla sua voglia di muoversi, perché è un ragazzo come gli altri dal punto di vista della vitalità. Quindi se c'è qualcuno che fa sport anche per ragazzi autistici può chiamarci senz'altro. Intanto la salutiamo, ringraziamo Margherita. Abbiamo un caso, abbiamo un'ascoltatrice aveva scritto, chiamato tempo fa per un suo caso che riguarda un pulmino che doveva portare il ragazzo a scuola. Vediamo se Lisa è cambiato qualcosa. Lisa, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora, riassuma velocemente qual era il problema. Sì, che dopo le vacanze di Natale il servizio di trasporto scolastico disabili era stato così inspiegabilmente, senza nessun annuncio. Questo dove accadeva? È in provincia di Caserta. Avete interrotto il servizio, non poteva andare a scuola. Suo figlio quanti anni ha? C'era 21 e frequenta ancora il quarto anno dell'istituto alberghiero. Doveva starsene a casa. Esatto. Però la vicenda poi si è risolta, quindi una bella notizia che volentieri insomma voglio. Chi è che si è mosso per risolvere il problema? Nicoletti, veramente io ho trattato le telefonate sia alla provincia che alla regione, perché il problema era si rimpallavano la responsabilità fra provincia e regione, ognuno diceva che erano fatti degli altri e quindi e alla fine quello che voglio segnalare è questo, che noi genitori chiaramente siamo quelli che in prima linea dobbiamo esporci e dobbiamo, perché chiaramente chi non ha il problema lo trascura. Ma l'ho detto all'inizio, sentendo quel signore che ha il diavolo tutti i disabili. Chi non ha il problema pensa che è qualcosa di normale. Ma sarà servito un pochino anche farti sentire, aver tirato fuori il problema? Ma semplicemente, ma senza neanche fare tanto la voce grossa, perché semplicemente esponendo un problema che magari altri ignorano e anche l'urgenza del problema stesso. E in verità questa cosa è servita, perché poi è stata risolta da lì a poco. Quindi era risolvibile il problema, non è che bisognava. Era risolvibile, ma anche perché io non riuscivo a capire come mai in una intera regione, perché era un problema il passaggio dalla provincia, delle competenze dalla provincia alla regione. Sì, ma non possiamo aspettare. Solo la provincia di Caserta, dico, le altre province hanno risolto. Io dicevo, ma vabbè, fate come hanno fatto gli altri. Sono quegli intoppi della burocrazia che non tengono conto, c'è una fetta di umanità che non può aspettare perché il suo tempo ha una velocità diversa. Quello che per noi passa un giorno, due giorni, tre giorni, una persona disabile è un'eternità, dannosissima per il suo futuro e per la sua serenità. Quindi se in qualche maniera siamo stati utili facendola parlare, dandole un microfono a disposizione, siamo contenti. Spero questo sia incentivo per altre persone che ci ascoltano di continuare a chiamarci, segnalarsi i propri casi. Ho detto, non siamo i risolutori per eccellenza, siamo quelli, se possono, quando possono e finché avranno possibilità di farlo, daranno voce a chi normalmente è difficile che faccia sentire la sua voce. Alla prossima.